sono ancora meglio. Un attimo che non ci vuole. Hai detto? Non hai detto sono qua Mario, eh. Attenzione Emiliano, sono sul canale 10, accendi la radio, vai da bravo, vai. Adesso se ce la fa entra, quello di Porto Torres. Emiliano Romagnolo? No, Emiliano Caimano. Sì, sì, so chi è. Ci siamo già sentiti. Ah, vi siete già sentiti? Assolutamente. Stavo dicendo, ma ce l'hai le FM su Kenwood? Certo, c'è AM, FM e CV. Ecco, forse adesso c'è il cambio barattino, vediamo controllo con quell'altro, perché in FM non l'ho provato con la modulazione. A parte l'alternata, volevo sapere com'è la modulazione, adesso lo monto. Ma vai, sono qua. E modula? Sono l'alternata. Ha fatto più lungo. La radio è leggermente più bassa dell'altro. Sì, è tipo dietro alternata, che non ho capito perché. Saturazione esco per quello che avanti Becker, buonasera. Staccato. Ciao Carlo, buonasera, a Tonello. Ciao Antonello, buonasera e anche agli altri che ci sono. Io ho acceso in questo momento e ti ho sentito, quella roba provata là, vanno bene? Sì, a voglia. Due ce li ho io, due ce la Giovanna, in pratica mia sorella, quindi siamo a posto. A proposito, devo dare due di quei Yaosai, due di quei VHF normali. Quindi, quando vuoi te li prendi, intanto io non faccio niente. Almeno ascolti e parli con così là. Eia, va bene. Hai sentito Claudio per caso oggi? No, la verità, no. Sono stato una mezz'oretta fa a casa, la verità, non è che stavo... Non ho ascoltato niente, quindi... Vabbè, nel caso intanto Claudio è che... Ma non ascolto quello che... Comunque ti devo dare quei due... Inter che 250 e quindi a un certo punto sono VHF normali, nuovi sono, sai, nuovi di pacca sembrano, ma con grasso c'hanno, quindi ti riprendi e dopo po' ti voglia, tanto io non lo sto usando, quindi a tenere in casa così a buttarli a un certo punto, cioè il caricatore te li carichi e poi mi accende e si apposta, funzionano benissimo proprio come apparati, la verità sono nuovi, sono in ferro, non sono in plastica come i PMR, capito? Eia, va bene, ma con quale microfono stai uscendo? Si sente o è troppo amplificato, si sente un rumore di o è la ventola? Sto uscendo troppo compresso, troppo. Sono in macchina, ero in movimento e quindi... senti forte. Carlo, ma dove sei? Dove sei? Perché non mi muovi neanche lo Smith, ti sento bassissimo. Sono praticamente, sono dove c'è l'Hotel Marini, Piazza Lessegni, sto rientrando a casa. Ah ecco, ora il segnale si sta aumentando, vai. Si vede che stai andando in una zona un po' più aperta. Sì, ma ho anche l'antenna quella lunga e dovrei arrivare meglio delle altre volte in macchina. Sì, poco fa, adesso il segnale sta aumentando, ma poco fa non mi muovevo neanche lo smitter. Se sei in macchina va benissimo. Yes, adesso sono proprio Piazza Lessegni, sto girando. Ah, se sei in Piazza Lessegni, vabbè, perché già mi do più lungo in Piazza Lessegni, mi arriva più forte. Come mai? Non lo so, io adesso sono proprio al centro di Piazza Lessegni. Ma sei fermo? No, sto camminando. Adesso meglio va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, va. Così va bene, Antonè. Ehi, ok, ma dove sei? Per fare se ne sei? Torna indietro un secondo. Ti devo quei portatili. Adesso sono all'inizio di via Mastino. E torna indietro, che dico quando portatili, così almeno ti usi tu. Io intanto non faccio niente, la verità, Sono il ferro, la verità, il ferro smalto, quindi sono nuovi nuovi, so, la verità. E il caricatore, almeno ti dici tu. Guarda, se vuoi torni indietro non mi costa niente, adesso giro, 5 minuti e sono da te allora, Antonè, sotto casa tua. Ok, non c'è problema per quello, già sono qua. Torna indietro, ti preoccupare, che tiro quei due portatili, tanto io non ne faccio niente. Se ne hai via, sto girando. No, lo lasciamo un altro giorno, se no tocca scendere a prendere freddo, Poi passa qua, fregate il vento, ho detto che futtendimi, passa qua, fregatene. Ehi, sto girando al tappetino. Ok, d'accordo. Adesso volevo sapere, a parlare come sta arrivando adesso, con l'FM500S. Guarda, la radio è a bomba, sia di segnale che di radio. Uguale, 9. Mario? In K, riprendo, ma devo salutare. C'ho una cosa da fare urgentemente, quindi vi saluto. Mi è spaventato quell'altro. Avanti pure, senza problemi, da parte mia, QRT. Eugenio, ci risentiamo più avanti. Ciao a tutti, avanti pure, Pomponio. Ehi, ciao, alla prossima, ci sentiamo, Ho capito che ti sei spaventato adesso. Perché sto usando l'FM500S. Esce con 5 volte e mezzo, figurati tu. Quindi vuol dire che gli esce bene, va? Sono contento. La mazza. A me piaceva più prima. Piaceva la modulazione di prima. Questo non ti piace, caro, perché ti viene a corna per la prova, se caro? Uno dice che esco bene, l'altro che esco male, a un certo punto, datemi l'apparato come si deve e vedo due in uno. Ciao Luca, mi comune, buonasera. No, stavo dicendo, io certo, quando l'hai staccato lineare facevi schifo, poi l'hai staccato, era perfetto. Questa pari di parecchio in bocca, un po' di gusto non riesco a capirti. Esagerato, dai, io non mi dico così, quanto non è possibile, va. Sono sempre liscio, ma sono liscio con 5 watt. Mi sta pompando, andate, 5 watt e mezzo. Dai, non raccontare cazzate. Vabbè, io sono stato a scuola, non ci credi. Ecco qua, così è liscio, ho visto? Aspetta, Sono quasi 4 watt, sono, figurati tu, il pilotaggio. A me non piaceva, era tutto su prima luce. Tu cosa dici? buonasera. Ciao Eugenio. Stava raccontando cazzate, era attaccato, sta parlando anche un bel sta parlando, perché era tutto intasato. Adesso sta uscendo con 4 watt, 5 watt. Infatti sto uscendo adesso con 4 watt e 5 watt. Quello è vero. Allora, così è liscio. E cos'è attaccato con il lineare? Un copilottaggio, ma va soltanto. Hai capito? Guarda un po'. Non è, sono sotto casa tua. Fai schifo, sinceramente. Esci molto meglio senza lineare. Infatti. Aspetta che c'era sotto una vita. Avanti Franco. Io. È tutto stato, una buonasera. Non so, aspetta un attimo che scendo giù e ci stiamo fra poco, cavolo. Non basta un po', vabbè. Staccato adesso, guarda. Un attimo sto scendo giù, 2 minuti, che sono due cose a un amico. Ci vediamo dopo, dai. Lineali, l'apparecchio è scossato, cazzo, ma non è possibile, cazzo. Vabbè, avete ragione voi. E appena, segnale sale parecchio, da 4 qua passi a 9 più 10, abbondanti pure, però la radio si rovina un po'. Perché gli dà troppo l'ingresso, gli dà. Io questo l'ho abbassato, gli do 4 watt, se riesce benissimo, non so quanti metri di fuori, però sicuramente più di 80, però non rovina la radio. E beh, fra, buonasera anche a chi c'è, l'amico di Porto Torres. Sono qua. Ecco, ciao Eugenio, come va? Tutto a posto, freddo, tutto bene? Sì, dai, non ci lamentiamo, a parte il freddo non ci lamentiamo, dai. Vabbè, tempo suo. Sta arrivando giù, 2 minuti. Ieri per me è stata una giornataccia. Sì, sono parcheggiato davvero l'altro. E noi di ieri e oggi stiamo lavorando in mezzo al ghiaccio quasi, là. La mattina era tutto bianco. Ieri è iniziato a grandinare verso le 10:30, 11. Sembrava quasi che nevicasse. Avanti Franco, come va? Capo, bene, tu. Okay, non ti lamentare, dai, intanto fra 2 settimane vai in pensione. E intanto ci hanno dato 6 anni poi, 6 anni di sci, 6 anni di lavoro sulla, poi, piano, 6 anni. Sono già 31 anni che sono lì dentro, più 6, sono 37. Piano piano, vedi la situazione sta andando. Poi vedrai che abbasseranno anche l'età pensionistica e tu ci sei già. Sì, magari. Firmo adesso. Non ne frega più niente, va. Avanti qua. Cazzo, 6 anni sono parecchi, Eugenio. Sì, hanno già firmato. C'è arrivata già la circolare, infatti da noi se ne vanno in 4, sì. 4 è l'anno del quest'anno che viene e il prossimo anno ancora se ne vanno in 2. Se andate a chiedarle a me 6 anni, magari avrò almeno 3, magari me ne battono anche i pucchi, 3-4. 6 anni sono un'ottima, come si dice, un bel obiettivo hanno raggiunto, caspita. Ma tu fai anche turni di notte, così è? Negativo, cioè a volte sì, a volte no. Noi non abbiamo turni specifici, capito? Siamo legati agli orari delle navi, a che ora entrano noi dobbiamo essere lì. Posso entrare di giorno, di notte, a metà giorno, a metà pomeriggio, orari non abbiamo. Perché in genere è considerato lavoro usurante, specialmente questi che fanno turni di notte, capito? Però un ottimo risultato comunque. Avanti fa. Usurante anche, lui fa camionista e deve anche guidare il camion, è anche usurante quello, capito? Perché io a parte facevo i turni, più facevo carrellista, ed era usurante lo stesso. Ci sono un sacco di lavori, credo che lo meriterebbero anche purtroppo, tipo i muratori o altri lavori diciamo con mano d'opera. A livello fisico proprio non sono riconosciuti, anche il nostro processo non è mai stato inquadrato come lavoro usurante, eppure manovriamo pesi e carichi, insomma, già l'hai visto cosa trattiamo io. Sì. Ah, da voi non ce n'è. Quella domanda non la potete fare. No, negativo. Io potrei utilizzare forse un anno di lavoratore precoce, ma da solo non te lo danno, deve essere accompagnato con un altro tipo lavoro usurante, oppure non so se c'hai una 104 o una cosa del genere, dai. Allora ti posso dare un anno di scivolo, ma un anno solo. Io ne avevo 4 anni di usurante, ne avevo, ma di precoce, 4-5 anni di precoce, e poi tramite usurante sono andato via 3 anni prima. Buono. A volte ci vuole un po' di fortuna. Io su 8 anni fuori me ne mancano 4, se no sarei stato già anch'io con 41 anni di abbondanti di contributi. Invece me ne ritrovo con 38, 37, 30, quasi 38 ne ho. E noi abbiamo mosso mari e monti, insieme abbiamo i legali, abbiamo due legali con le compagnie uniche Italia e siamo riusciti a ottenerlo. Ah, davvero? Ottimo risultato, caspita, 4, mamma mia, 6 anni poi addirittura, non ho mai sentito una cosa del genere, 6 anni. Per noi sembra un miraggio, un'utopia proprio, okay. Perché da noi ci hanno messo in mezzo un sacco di cose, capito? Un sacco di cose, lavori dentro, con i fuori delle macchine, quello, quell'altro, le pareti che fino a poco tempo fa c'era l'amianto, insomma ci hanno messo in mezzo un po' di roba e sono arrivati a questo risultato. E vuol dire che eravate appoggiati bene, perché anche noi utilizziamo tipo delle traverse che sono, non oggi, ma tanti anni fa erano trattate con la catramina, tutta roba cancerogena, polveri e cose varie. E che i sindacati ce ne sono un po' fregati, dai, tutto, un po' colpa anche nostra. E vabbè, cosa vuoi fare? Lavoriamo ancora fra. Vabbè, dai. Se sei già a 41, sei già vicino. No, 41 che lavoro, però non ce li ho tutti assicurati, capito? Su quei 8 anni fuori me ne mancano la metà, quindi me ne mancano 4, da qui 41 devi togliere 4. Ma tu hai oltre 50 anni, fra? Sì. Io ne ho 48, fatti l'altro giorno praticamente. Mamma mia, sto pregando, guarda. Io ne ho qualcuno in più, dai. Ormai mi sto per avvicinare più ai 60, però ancora già teniamo duro, come si dice. Già mi la botto. Allora, mia Natalina, buonasera. Ciao Natalina. Però oggi, se ti vado, anche se ti vado 6 anni prima, devi avere un'età, devi avere, c'è una clausola che dice che devi andare, per dire, a 62 anni, 60 anni, 63 anni, c'è quello, c'è anche. Vabbè, se raggiungo gli anni di contributi, aspetta un attimo, devo subito. Capo, avanti Natalia. Ciao Eugenio, se mi ascolti. Si è allontanato un attimino, sì, avanti fra. Perché non ti deve ascoltare Natalia? Come? Perché non ti dovrebbe ascoltare, dico? C'ho l'antenna bassa, io sono al minimo della potenza, perché già lo sai. Comunque, buonasera a tutti. Grazie per avermi fatto entrare. Ci mancherebbe altro. Sei sempre benvenuto qua su questa misera e povera ruota, mezzo sgangherata. Vabbè, ci accontentiamo per il momento. E allora, quella roba poi l'avevi già ordinata, ci deve arrivare e basta? Sì, l'ho riordinata, mi hanno caricato la carta e l'ho riordinata. Mi dovrebbe arrivare domani o dopo. Sono di nuovo qua. Eccolo, lo senti Natalino Eugenio? Natali, buonasera. Buonasera anche a lei, non so se mi ascolta, eh. Come no, più forte degli altri giorni, abbassa perché sennò fai ti guai. E cosa abbasso? Non posso abbassare niente, no. Posso alzare, ma abbassare no. Oggi è l'avvocato blu e mattone. Ma così è. Lui gli foglio di carta là sotto. Non naggio, non c'ho nulla, eh. Ma no, tu devi... No, se arrivi bene vuol dire che ti è andato bene, dai. Mamma mia. K, mi interessa più la radio come sta uscendo, capito? Come mai stai, mi stai arrivando molto più forte degli altri giorni, se non hai niente? Senti, Natali. Come mai gli sta arrivando più forte degli altri giorni? Cosa ne so? Forse si è asciugata l'antenna, adesso non ho stazionari, ecco perché forse gli arrivo più forte, non lo so. Però... sono proprio a zero. Comunque va bene, sta arrivando bello, bello limpido, la grande. È che la piega dell'antenna è proprio verso il portatore, quindi tutta è concentrata verso quella parte. Così è. Così è, Natali. E sarà così, cosa ne so io? Io non ho toccato nulla. Avanti, fra. Lasciatelo stare, e beh, dove arrivendi lei, arrivendi, e scende bene. Lasciatelo stare, va bene così, Natali. Lascia stare, non tocca nulla. E così farò. Si è formata una specie di stalagmite in punta all'antenna, quindi è diventata ancora più lunga. Mica non sia quello veramente. Ma chi è che abita in via Pascoli? Chi ha la Game Master nuova nuova? Proprio all'incrocio dove c'è il distributore. Me l'hanno detto, ma no, non mi ricordo che cavolo sia. Nuova, non c'è. Non c'è da poco già. Non è una Game Master quella, buonasera a tutti. Ciao, più o meno era di fronte a dove abitavi tu prima, Cla. Io lo so, una rimasto è quella, non è una Game Master comunque, è una multibanda quella che è bianca. Sembrava una moto Game Master. Ciao, buonasera, Chihuahua, ben sentito. Ciao a tutti, però non rimango, dai, che sto parlando da in altre frequenze. Già ci sentiamo, ragazzi, statemi bene, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Claudio, un abbraccio a tutti. Grazie, grazie, grazie anche a voi, ciao, ciao. Avanti, Natali. Andrà bene. Sto leggendo un affare della... come si chiama? Dell'antenna che mi sta arrivando. Mi è arrivata la comunicazione. Un attimo. Leggi, leggi. Avanti, fra. Capo. Almeno subito ci abbiamo un'antenna nuova. Adesso vediamo come va, dai. Ma sicuramente va meglio. Innanzitutto non disturba. Se tipo questa canale a pesca che ho io, non disturba nulla, boh. Ce l'ho attaccata alla televisione della signora a fianco a me, lì dietro il mio muro c'è la televisione, anche se uso qualche vitamina, non si è mai lamentata, boh. Un impianto buono, un impianto anche amplificatore, antenne nuove, bolla TV. No, non c'è l'antenna lì, lei c'è proprio la televisione dietro il muro. Vabbè, ma molte volte non c'entra. Vabbè, con questi nuovi televisioni, cosa vuoi entrare? Ma la sorte, qualcuno si lamenta. Anche da poco stavo leggendo, forse su Facebook, sul tipo che a una certa ora, verso le 6:30, non vedeva più la televisione. E la gente che scriveva sotto nei commenti, sono i baracchini, subito la colpa dei baracchini. Avanti, oggi. Sì, se era un baracchino avrà avuto ancora il televisore a tubo cattolico. Ma penso che ormai non ci sia più nessuno. Oh, l'altro giorno dov'è? Non lontano da casa, c'erano tre televisori di quelli col tubo cattolico. Da ritirare, diciamo, quelli dell'autoparco, là, col bigliettino, col numeretto. Quindi vuol dire qualcuno c'era ancora. Ma quando mai? Ma... sicuramente non funzionava, si roba in garage, tenuta lì, fa un barrazzo e basta. No, ce l'aveva in casa perché questi non ne hanno garage, quindi ancora erano in uso, magari col decoder li stavo utilizzando. Oppure gli ha fatto, come si chiama, la nicchia dentro il muro per far vedere che era uno schermo piatto, ha fatto lo scavo nel muro. Sì, ma non ce la fa nemmeno col decoder perché i vecchi televisori a tubo cattolico, se non erano quelli un po' leggermente più avanzati che guardano la presa a scarpe. Non li puoi neanche attaccare. No, infatti già non erano così vecchi, erano di 20 anni, boh. C'era già la presa a scarpe, dai. Franco di Sorso, io lo so che tu c'hai ancora il televisore a tubo cattolico. E allora, se non una volta comprare l'altro televisore. Beh, se funziona e si vede, pago sarà pazzino, ma c'è un prezzo. Appunto. Ho un tubo cattolico da 50 pollici. Andava bene. Se io da un pollice e mezzo. Non ho proprio televisore a casa. Adesso ci dobbiamo buttare anche questi, se no li devo mettere, io ne ho 4 o 5 qua, tutti e 4 senza internet di seconda generazione, ma dimmi tu. Perché adesso stanno trasmettendo in Full HD, se non hai un televisore HD o Full HD non vedi più niente? No, ancora li vedo, ma da ottobre del prossimo anno mi sembra, del 2022, non basta l'HD, devi avere il T2, terrestre di seconda generazione, e io invece i miei sono tutti T1. Sì, oppure Full HD. No, i miei sono Full HD, infatti adesso continuo a vederli, adesso però tra qualche, tra un annetto, purtroppo non potrò più vedere niente. Dovrò mettere un decoder, anche se è Full HD, non ho il sintetizzatore, il T2, sono tutti T1, perché hanno già qualche anno, dai, anche se sono tutti nuovi, si vedono bene, sono belli, bei televisori, sono tutti della LG, però sono tutti T1. Ma io devo guardare, perché il mio l'ho comprato da poco, devo guardare se T1 o T2 è blu. Allora, per vedere se è predisposto, devi mettere il canale 100. Nel canale 100 ti deve uscire una schermata, che c'è scritto HCV, non mi ricordo che sigla c'è, azzurra. Se vedi quella schermata, allora il televisore è già predisposto. Se non vedi quella schermata, infatti io non la vedo in nessun televisore. A parte in uno dove ho già messo un decoder, che lì in cucina non era neanche HD, quindi ho dovuto cambiare subito il decoder. Se vedi quella schermata è già predisposto, ma se ne è preso da poco, sono già 4-5 anni che non possono vendere televisori, a meno che non siano già col terrestre di seconda generazione. No, allora io ce l'ho neanche un anno. E allora vai tranquillo, l'hai preso diciamo in negozio, non online? Da Truni, in via del produttore, scusa, c'è Truni. E allora se vai tranquillo, perché magari online puoi trovare qualche televisore vecchio in giro, ti fanno una buona offerta, ma molta gente non ci pensa, e magari un televisore di vecchia concezione, ma in Italia è già tanti anni che non possono vendere nei negozi un televisore, a meno che non sia di seconda generazione, capito? Per legge proprio. No, ho capito, e allora non c'è problema. Avanti Frank. No, io c'ho quello di dentro, in piano da letto, quello lì va bene. Vabbè, ancora si vedono. L'unico che non si vede è questo che c'ho qua dove c'è la radio, il culino. Lo sto facendo viaggiare già col decode, se no non si vede niente, è tutto buio. Sì, io ho preso uno piccolo della... l'ho pagato, mi sembra, 29,90, 30 euro, e addirittura c'ha il telecomando dove puoi memorizzare 4 tasti del vecchio telecomando, quindi praticamente puoi eliminare il vecchio telecomando, che ti metti l'accensione, il volume, il cambio diciamo di presa, di sorgente, e poi il lato ce lo puoi anche buttare, quindi solo il telecomando nuovo. Sì, allora io ho problemi. Ho avuto un HD. Buonasera, comunque Vannino. Buonasera. Io non lo sento, lo sento a malapena. Non può fare niente. Vediamo un po'. Aspetta, adesso, sì. Adesso un pochino ti sento, perché c'è anche un po' di QRM, però adesso un po' ti ho sentito. Siete anche tu da Porto Torres, buonasera Vani. sto. Strano che non mi senti affatto solo, vabbè così. Non fa niente. Va bene così. Andare là che sto facendo altre cose, mi volevo approfittare a salutare. Ma lì non è a Sassari, non è a produttore. A produttore sono io. Sì, con me c'è l'orso. È a Sassari, cosa Franco. Proprio sono un riso è l'altro. È un genio. Vabbè, da comunque va bene uguale, da mi ascolto in caso di sorvego, ma in caso ciao Franco. Avanti Franco. Per me è un po' negativa quella zona per adesso, finché non sale l'antenna sul tetto, purtroppo non vedo nulla da qua, sono bugie come si dice, capito? E dove rimane? È una zona diversa dalla tua sicuramente? Lui è nella pianura giù, è più basso di me, ed è per quello. Però già si fa sentire spesso, magari sei tu che c'è l'antenna nascosta. L'hai visto, vabbè. È già troppo che mi sentite, che vi sento io pure. Cosa? Scusa che non ho capito che avete parlato in due. Ho detto che Vanino rimane sorso sud, invece Franco è sorso nord. E allora? Siccome è talmente grande. Vabbè, sono molto più in alto io di lui. Insomma, lui è già in piazza. No, si vede che c'è qualcosa di differenza, potrebbe essere in potenza, in antenna o in posizione, però la differenza c'è. In antenna può essere solo cosa di che è più basso e bassa, perché come potenza ne è più di me. Ma ah, che è lo stesso, non lo so cosa sta usando. Sembrava dall'aggancio, sembrava un MC60, boh. Non lo so. Allora, ci fa sentire, perché infatti lui pensava che tu eri a Porto Torres. Ma Porto Torres sarebbe molto più aperto rispetto a me. E quasi ci vedono, anzi forse ci vedono. Chi è quello che c'è vicino alla fontana? C'è un amanto qua vicino al gommista, fra. E quello è un altro. Quello urla qualche volta. Ma su questo canale? A volte qualche volta entra, ma poco. Ma lo conosci, sì? Sì. Tu fra con i Sassari, in che zona sei? Io sono proprio sotto Sacro Cuore, Sassari. Monte Osello, più basso di me non c'è nessuno. Mi hai accoppiato? Sì, stamattina ero da quelle parti. Ero da Foggiche, quello che fa installazione autoradio. Via più o meno via Pascoli, vai. Hai risolto quel problema. Quale? Non è tu che dovevi attaccare una radio, mi sembra. Ti serviva un adattatore, se non ricordo male. Sì, ho risolto, sì. Risolto, proprio per quello sono andato. No, era praticamente mi andava in protezione l'autoradio. Se sollevavo più di tanto andava via l'audio, spariva l'audio. Ed erano le casse in corto, sono andato le casse in corto, capito? E cercavo di eliminarle quelle dietro, ma erano in corso e non mi facevano andare in protezione l'autoradio. Ho dovuto cambiare. Quindi proprio le casse, non l'impianto elettrico, non si toccavano i fili uno con l'altro, erano proprio le casse in corso. Erano proprio le casse, perché nel camper io ne ho due dietro, no? E gracchiavano. Cosa ho fatto? Dall'autoradio li ho eliminate, però alla fine erano sempre in corso, in ogni caso erano in corso e non andavano in protezione l'autoradio. Un attimino che mi allontano. E siamo qua. E quindi li hai eliminati adesso del tutto? Hai isolato i fili o hai cambiato le casse? No, negativo, ho cambiato le casse, sono andato a Pudiche, le ho provate, e mi ha detto sono le casse in corso. E ho dovuto cambiare le casse di dietro. Cosa hai messo? Roba seria o? Dell'Audison. Vanno bene? Sì, roba di prima mi ha detto che... Io ne ho un paio nella smart che gracchiano di brutto, gatto. Sicuramente mia moglie ha smanettato un po' e non hanno retto, diciamo, la potenza. E adesso fanno rumore, specialmente i bassi, cavolo. Beh, attenzione, perché io credo che fossero cavolate, invece no. Da una è passata all'altra e me le sono bruciate tutte e due e mi mandavo le posizioni all'autoradio. Cioè l'autoradio rimaneva accesa, attenzione, rimaneva tutto acceso, però non usciva l'audio perché c'erano le due casse in corso. Magari c'hai, come si chiama, la protezione per i finali andavano a surriscaldarsi e quindi entrava qualche protezione termica, dai. Esattamente, entrava in protezione l'autoradio per non bruciare i finali. E meno male che c'è questa protezione, caspita. Ottima radio allora, vai. E diciamo che l'autoradio è buona. Capo, no, le mie saranno proprio da cambiare, è che devi smontarne tutti i pannelli, prima le casse le mettevi da parte in fuori, facevi un buco e mettevi le casse, adesso per smontarne le casse devi smontarne tutti i rivestimenti e cose varie, dai. Esatto, ho risolto il problema comunque. Già va bene, e quell'antenna ce l'hai ancora, sì? Quell'antenna? Quella da 2 metri, la lunga? Ah sì, la Turbo 2000. Ma a te ti serve più corta per il camper o no? Se no ce la scambiamo qui. Cos'hai di antenna? Perché io ho la Turbo 2000 e ho anche la quella più corta. Però vabbè, me ne serve un'altra. Cos'hai di antenna? Però non ho la base, capito? Non ho la base. Ah, noi ce l'ho completa su una magnetica, ce l'ho. È la quella da 1,60 credo che sia, sempre della Sirio. Non so che sigla abbia, boh. Io ho la Turbo, però non ho la base, capito? Non ha il morso di sotto, capito? Che lo uso, io il morso ce l'ho per quella corta. Sì, no, a me la corda mi sporge poco dalla macchina, capito? Che rimane dietro la ruota di scorta, io ce l'ho attaccata alla ruota di scorta, la staffa. E quindi sporge una 40-50 cm dalla capozza. Invece con una da 2 metri magari, qualcosina magari la guadagno. Però non so se vada bene se cambiare solo l'antenna, lasciando l'attacco diciamo di un'altra antenna vecchia. Là. Credo che siano uguali gli attacchi. No, gli attacchi sono uguali. Quali era anche proprio caratissima, non aveva neanche un goccio di stazionale, era perfetta, non è stata neanche tagliata, niente, comprata, messa lì perfetta. Sì, no, dietro, io ho l'accordatore, quindi, ma è giusto con l'accordatore, anche se non è il massimo che dovete fare, perché sarebbe stato meglio magari accorciarla o allungarla, vabbè, un po' la puoi allungare, non più di tanto, però in genere vanno sempre accorciate, perché sono fatte un po' lunghe per tararle, dai. Io non me ne faccio nulla, io dico fatto modulia 1, altissima, non me ne faccio niente. Perché poi nel camper addirittura non è indicato che già è alto il camper, non puoi metterci un'antenna lunga. La mia perché parte diciamo da metà macchina e quindi poi quelli in acciaio, anche se prendi un albero o qualcosa non gli fai niente. Perché già ce l'ho lunga l'antenna io sopra il camper, ce l'ho già, ti ho messo la Midland, quelle lunghe, che hanno l'attacco a farfalla, capito? Con l'attacco piccolino. Adesso da un amico mi sono fatto fare un bel piano di massa e le metto la Turbo, quella piccola però, quella che chiamiamo la 800 là, e via. No, quella ce l'ho anch'io, diciamo, la chiamavano la frusta nera, che è tutta caricata, è grossa quanto, diciamo, quanto un dito. Quella la usavo tanti anni fa da ragazzo, ma usciva che era una bomba. Quella sarà lunghissima come antenna, già l'antenna forse 1,50, ma è tutta caricata, quindi la carica sarà alta 2,75 di carica. Ma non mi piace, troppo nera, non ho capito quale, non mi piace. Oh, se la vuoi te la rompi, la provi, non è un problema, io non me la faccio nulla. No, ma mai è scritto Roberto Quadrato? No, qua non è entrato, là. Faccio uno spazzolotto allora. Continuate, ciao a tutti. Ma qua c'era gente sul 20, prova sul 20, c'era Gianfranco se non sbaglio. E allora è lì, dai. Ok, ciao a tutti. Io ti parlo però di più di mezz'ora fa, non so se ci sia ancora. Ciao, Cla. non te ne fai nulla? La tubo 2001, quella lunga, no, non me ne faccio niente. C'è un garage messa a posto, tranquilla, ma non me ne faccio nulla. Io posso provare se recuperate anche l'attacco, perché io l'attacco ce l'ho attaccato alla macchina, ma quello non posso toglierlo, perché quello mi serve per la mia, per quella che ho in uso, dai. Però posso vedere se ne busco un altro simile. No, non ce l'ho, io ce l'ho il motto, per quella piccola, ce l'ho, non ho problema. Io ho la Turbo 2001, senza motto di sotto. Se vuoi te la affretto, la provi, vai su di voi, a me non mi serve, intanto non la monterò mai quella lì, capito? Ora l'altro giorno infatti c'era uno la stava dando, però era completa, ma proprio sulla busta, forse non l'ha comprata, non l'ha mai utilizzata. Però me l'aveva già promessa, porca miseria, la stava dando, 30 euro era un ottimo prezzo, metà prezzo, che non va so cosa sulle 55-60 euro credo, la grande. Però purtroppo questo poi alla fine se l'ha ritirata e io ho perso un'occasione. Quella era proprio completa, cavo, tutto completo. Ma se tu c'hai già il motto, io l'antenna ce l'ho, ti sto dicendo te la presto, non la faccio nulla, ci mettiamo d'accordo, non me ne frega niente, capito? Non me ne frega niente, tanto non ne uso, non ce l'ho in garage, messa lì apposta, nuova. Qualche sera magari se la proviamo, scendo giù a portatore, se c'è qualcuno a sassa rifacciamo un test, dai, vediamo cosa cambia da una all'altra. Ma tu hai un fuoristrada? Sì, io c'ho un fuoristrada. Ah, ok. Cosa fai, parte di qualche club? Diciamo che esco con qualche club, sì. Adesso invece c'è una bella uscita il primo di dicembre, se non sbaglio, ma io sono fuori, non ci posso andare. Vabbè che adesso questa l'ho cambiata, non ce l'ho da tanto, quindi un po' la voglio tenere un po' senza graffi, dai, finché dura. Poi questa poi non è un colore che tiene i graffi, è un po' scuro. Invece la vecchia che avevo, la bianca, una lucidata, neanche si vedevano i graffi, questa si vede subito. Io con ora non so se sia ancora il presidente, 4x4 richiuso, una cosa del genere. E di dov'è? È di Sassari, Pino. C'era anche Pignolino, lo chiamano Pignolino, Massimo. No, io esco con Paolo Spina, 4x4 Experience. A volte facciamo serie lì a Ittiri, perché lui è sposato a Ittiri, dai. Adesso una bella escursione, poi mi sarebbe piaciuto perché nella zona della Gallura, lì in mezzo al granito, caspita, ho visto il video di preparazione del tracciato, a volte andavo anch'io a dare una mano là, per preparare i tracciati, per segnare il percorso, cose varie, dai. Va bene, io guarda, domani mi viene male perché ha messo mal tempo sotto il giorno al porto, però me la posso mettere in macchina, non è un problema, cioè quei 10 minuti, quella mezz'ora la trovo per venire a dartela, non c'è problema. No, ma non preoccupate, con calma, quando capita, quando migliorerà il tempo, dai, una bella serata, magari mi faccio una passeggiata, dai, me la metti da parte e poi ci vedremo qualche giorno. Tanto per questo già ci sentiamo, dai, ogni tanto, io non è che entri spesso, però magari riesco a recuperare qualcosa dal Ghero, perché dal Ghero quando chiamo mi sente solo Claudio, mi sente. Comunque ce l'ho, vai, mercoledì se ci sentiamo, una mattinata, in pomeriggio, in primo pomeriggio, se ci troviamo e te la do, la proviamo. Mercoledì e domani mi sbaglio, così è. Sì, domani è. Figurati, metti su Google, giovedì. Vediamo, dai, devo guardare anch'io. Adesso venerdì mi sembra che c'è un appuntamento, devo venire a guardare la caldaia che è andata non dico in blocco, ma mi sta dando troppa temperatura l'acqua calda e meno ai termosifoni, quindi adesso la sto usando solo l'acqua calda, sto usando le pompe di calore per adesso. E poi veniamo, ma sicuramente la valvola tripla che non sta commutando bene. Sì, ho capito. Vabbè, quando vuoi, dimmelo, non c'è problema. Ce l'ho in garage, è pronta lì, nuova. E la proviamo nel tuo fuoristrada, vediamo un po' come esce. Comunque va bene, vai tranquillo che va bene. Sì, dato io ho anche l'accordatore, lo tengo sotto il sedile. Nel bene e nel male, perché l'altro giorno qualcuno con i piedi mi ha spostato Minchia, mi sentivano male che stavo dicendo assata, ma come mai? Siamo stati a 1000. No, questa già esce bene. L'avevo anche provata, esce bene. Vai tranquillo. Io lo so, ma quando l'antenna non la metti, diciamo, nella posizione sua, sul tetto, diciamo, dà sempre un po' più di problemi ad accordarla. Bene, per quello io metto l'accordatore. Alla fine, invece di stare lì a rovinare l'antenna, l'accordo leggermente con l'accordatore, me la porto. Anche perché se cambi frequenza, a volte fai qualche DX sulla 27555, e quindi devi accordare un po'. Ma gente informazione, signor Cabo, ce n'è? Perché io ho un amico, si chiama Lorenzo, non so se ci faccio ancora parte, ma penso di sì. Non ti ho capito all'inizio, puoi ripetere per cortesia? Ho detto, nel club del fuoristrada io ho un amico di Porto Torres, che mi sembra proprio 4x4 Expede, si chiama Alessandro. Ha un defender a passo corto. Sicuramente sì, perché questo club è proprio, diciamo che è specifico per i Land Rover, però ci partecipo anch'io con altre, anche altra gente, con altre marche, però adesso per esempio l'uscita è proprio per Land Rover. Non ho capito. Anche lui, anche Paolo c'ha un defender, no, non un defender, quell'altro, il Discovery. Sono tutti preparati, sollevati da terra, molle, ammortizzatori, li fanno anche il body, sollevano anche la cabina, cosa fanno poi? Li cambiano i paraurti, li mettono quelli a uso gravoso, insomma già ne fanno, cioè, guarda, se ci stai su ne spendi i soldi, migliaia di euro. Sì, già il vero, tutti con i molloni sollevati, già il vero. Sono figata, peccato che facciano 80, se si infretta non puoi andare nessuna parte. Non ho capito, che facciano? Peccato che facciano solo 80 km orari, 80-90, e se si infretta è un problema. Ma no, io già cammino, ma caspita. Dipende che macchine sono, certo se è un Defender dell'anno 3 non cammina, ma le Mitsubishi per esempio la mia è un 3200, sono 200 cavalli, cioè vola, cammina più di una macchina. Ho capito, e la ci viene fatta preparare, da Biresi? Non ho capito, da Biresi? Ci vuole preparare le macchine, gli ammortizzatori, i paraurti, tutte queste cose qua. No, io la tengo normale perché purtroppo la uso anche come macchina di tutti i giorni. Però molti si rifanno anche da un meccanico qualsiasi. Il problema è che la devi omologare, cioè non sono omologabili queste cose, molte, specialmente in Italia, molte cose non te le passano. A meno che non accada la fabbrica così. Se no se ti beccano, te le misurano, guai. Vabbè, ma se ti metti solo gli ammortizzatori più alti non è che succeda nulla. Ti sembra a te, perché la macchina cambia tutto, tu la stai sollevando, sollevi il baricentro dalla macchina, in curva non ti tiene più come prima, capito? Vabbè, sì, effettivamente. Un attimino riprendo subito, mi stanno chiamando. Prendi Natalino, ha letto tutto il bugiardino dell'antenna. Già ho letto tutto, che adesso sto mangiando, dai, già vi ascolto. Dai, buon appetito, non ti disturbiamo. A tutti in famiglia lì. E anche ci deve Franco e di Soso, credo che sia ancora in stand-by. E anche Rugio, che ora è? 7:20. Ah, ok. Oh, vabbè, fammi un naggio, poi già eravamo di compleanno, perché tu hai già compiuto 90 anni di Natalì. Cavolo, auguri. Abbiamo festeggiato così da un po' sottotono, perché purtroppo queste feste non puoi fare più di tanto. E in effetti, e cosa vuoi fare? In famiglia, dai, roba ristretta. Le settimane stagionali sono buone. Hola, sì. 5 watt sta dando adesso, tutti andati via, insomma. Natalino sta mangiando. Franco è andato per la commissione, di sorso, e anche Eugenio. Ehi, andare. Va bene, no, io sto facendo le prove sull'R1, adesso mi sono spostato sull'R7, mi ascolto. Roberto, non si è sentito stasera. No, nega, negativo, quindi non c'era neanche sul 20. Ieri mi sentivo, ieri eravate sull'R7 ieri. Eravamo sull'R7 Alfa, quello, e poi siamo spostati in diretta 525 e poi facevamo il duplex a 433-500 in UTF. No, ma io vi ascoltavo bene, poi infatti quando siete andati in diretta vi ho perso un po', sentivo un po' più male. E stavate utilizzando, diciamo, l'antenna dell'apparecchio, dai. E poi invece, vabbè, poi ho chiuso, se no poi riuscivo a ascoltare né l'uno né l'altro. Ah, sono un po' qua, eh. Va bene, entrate Eugenio, vai. Allora ti lascio con Eugenio, io faccio qualche cosetta, ci sentiamo dopo fra. Vai Eugenio. Sono andato in cucina, mi sono riempito il bicchiere di Jack Daniel, adesso me ne bevo un po'. Hai capito? Però a me se mi manca il bicchiere di Jack, la sera non riesco a dormire. Vabbè. Però io a volte ho un po' di vino, un po' di birra, ma qualche amaro ogni tanto, più di tanto, mi forse quando siamo fuori, mesi caldi, tipo Caraibi, qualche buon bicchiere di rum, fatto da loro, ma distillato da qualcuno lì, qualcosa l'assaggio, con un sigaro magari. No, io non fumo, accidenti. No, neanche io fumo, ma giusto per fare un po' di scena. Sono stato a Cuba. Beh, abbiamo parlato assieme, dimmi. Sono stato a Cuba. Sì, sono stato anche a Cuba, lì vicino alla Havana, Varadero. Ho capito. Io sono stato accidenti, ci è sceso di traverso la cosa, nella lanciata, un accidenti. No, sono stato in Messico. E dove? Vai al Carmen. Ed è bello anche in Messico. C'è un bel mare, c'è bei colori, c'è un bel turchese il Messico. Sì, bello, bello, bello, bello. Io ci tornerò anche domani. Diciamo che qualche giro già me l'ho fatto. Sono stato anche giù, in Sudafrica. Qualcosa anch'io, quando ho qualcosina da parte già. Ma la spendo in viaggi. Quando posso, se no ho già sto bene anche questa Sardegna. Prima con la lira era più semplice, adesso con l'euro è un po' più difficile fare viaggi. È un problema un po' per tutti l'euro. Vabbè. C'è Grecia, c'è quelle parti lì, Santorini, girate tutte. Vedi, una città che mi piacerebbe di andarci, qualcosa, è Istanbul, bellissima. Istanbul è proprio bella, bella, bella. Sono belle, no? belle città quelle. Forse è andata mia sorella da poco. Poi ho visto anche qualche bel video. No, mi mancano tutte le capitali europee. A me piace più il mare, quindi ho fatto più che altro Caraibi, oppure Sudafrica, come dici tu, Kenya, la zona lì, Mauritius. Poi cosa ho fatto? Tanzania, quella zona è sempre lì, ho fatto un bel safari. Abbiamo anche dormito lì in mezzo alla savana. Anch'io, io sono stato proprio a Malindi. Ho fatto il parco, come si chiamava? Zambo Sud, o come si, una cosa del genere. Anch'io ho dormito in savana. In quei loft bellissimi. Sì, nei loggi. Tu hai fatto. Hai fatto, come si chiama? C'è il Masai Mara oppure l'ottavo nord, l'ottavo est, sud, quello lì. Ho fatto anche il Masai Mara, sì. Bello. All'inizio un po' mi sono spaventato quando siamo arrivati in Avami, Babaracci. Poi invece ti affezioni a questa gente, a queste persone, perché campano con poco, sono i bambini, sono felici quasi con nulla. E inoltre hanno tutto, ma li sono sempre attunciati. Vizi, quelli sono i vizi. Bello, ma lui è bellissimo. Bello. Io sono stato anche nel villaggio dei Maori, sì, dei Masai. Mi sono comprato il panga,